in primo piano. Buongiorno da Giulia Crivelli, buon mercoledì. Eccoci sulle prime pagine dei giornali, oggi come prevedibile monopolizzate dalle notizie che arrivano da Washington sulla Siria e ancora una volta dalla questioni economiche legate al Consiglio dei Ministri di oggi con la probabile decisione per l'IMU e sulla giornata di ieri economica, i cui aggiornamenti avete sentito anche nel GR. Cominciamo quindi dal Corriere della Sera, che titola: tutto è pronto, l'attesa di Obama. Parigi con Washington e Londra, sarebbe questo per ora il fronte chiaro di chi è favorevole a un intervento, anche se molto mirato. L'Italia però, tramite le parole del ministro Bonino, ha fatto sapere: senza l'ONU nessun appoggio. Vi segnalo l'analisi di Massimo Gaggi, sindrome Srebrenica, come Clinton 18 anni dopo, non proprio. Vi leggo le prime righe, poi continuo a pagina 5. Obama esita, ma per i sostenitori di un attacco militare in Siria è il Srebrenica moment, la strage di 8.000 civili bosniaci trucidati dai serbi, che nel 1995 convinse Bill Clinton a dire sì all'intervento USA nel conflitto balcanico. Quindi c'è il paragone tra queste due decisioni drammatiche prese, o almeno una sicuramente, quella di Obama, vedremo, da due presidenti democratici, appunto, di un intervento armato, e poi le ragioni per le quali, secondo Massimo Gaggi, non sono in realtà paragonabili. Dalla prima pagina del Corriere della Sera, anche appunto il titolo che vi dicevo economico: giorno decisivo per l'IMU, il pressing di Letta per cancellare le due rate. E poi vi segnalo un retroscena di Tommaso Labate, che torna su un'intervista che avevamo visto rilasciata al Corriere della Sera proprio lunedì da Luciano Violante. L'ex presidente della Camera, esponente democratico di spicco, aveva definito legittimo un possibile ricorso alla Corte Costituzionale sulla questione della decadenza del Cavaliere, ma come abbiamo sentito poi c'è molta cautela nel PD, tantissime posizioni diverse, tantissimi distinguo su questa proposta appunto di Violante, che in realtà starebbe interessando, come scrive Tommaso Labate, il Presidente della Repubblica. Dalla prima pagina, dalle pagine interne del Corriere della Sera, pagina 6, anche un aggiornamento, un resoconto di quello che è successo ieri in borsa. La tensione piega le borse, Milano giù del 2,3%, e poi il ritorno del famigerato spread. Il differenziale con i Bund tedeschi arriva a quota 260. Visto che abbiamo parlato di economia, vi segnalo subito la prima pagina del Sole 24 Ore, dove naturalmente c'è anche l'aggiornamento sull'intervento in Siria, con un'analisi di Mario Pratero, che è lo storico corrispondente dagli Stati Uniti del Sole 24 Ore, ma il titolo principale è: shock Siria per i mercati, spread BTP Bund, come appunto abbiamo letto anche sul Corriere, a 260, e poi titoli biennali italiani superano gli spagnoli per quanto riguarda il tasso di interesse. C'è il solito confronto con una tabella che fa vedere il rendimento dei titoli a due anni dal 2 gennaio a ieri, appunto 27 agosto. Con un'analisi di Isabella Bufacchi, il rischio Italia e l'ombrello della BCE. Ma in realtà vi segnalo l'editoriale di Alessandro Praterotti, vice direttore del Sole 24 Ore, che si chiama Il richiamo dei mercati. Vi leggo la prima parte, poi continuo a pagina 2. Quando il 9 novembre del 2011 lo spread tra i BTP e i Bund toccò il record storico dei 575 punti, la prima reazione del governo e in generale delle forze politiche fu l'accusa di aggressione e sabotaggio rivolta contro i mercati. In sostanza, come ricorderanno in molti, il crollo della borsa e il volo dei tassi di interesse sui titoli a breve e lunga scadenza furono attribuiti all'avidità e al cinismo degli speculatori americani, che non si sa bene per quale ragione avevano deciso nel corso dell'estate di affondare l'euro, l'Italia e il governo Berlusconi. In realtà, come dimostrarono gli sviluppi positivi della crisi dopo le dimissioni del governo, ma grazie alle banche centrali, la tesi del complotto era a dir poco fantasiosa. Vendendo i titoli italiani, il mercato, cioè l'insieme degli operatori che hanno in gestione i risparmi di milioni di famiglie italiane e non, ci stava soltanto avvertendo che dopo l'esplosione della crisi greca l'Italia non poteva più permettersi di essere una variabile indipendente tra le economie dell'Eurozona, che il suo debito era eccessivo e che le inefficienze, la burocrazia e l'assenza di stabilità e di leadership politica necessaria per impostare le riforme e un percorso di ripresa di crescita economica erano ormai tali da mettere a rischio il sistema paese e con questo l'intera eurozona. Oggi, a 2 anni di distanza da quegli eventi traumatici e dopo alcuni innegabili passi positivi sul terreno delle riforme, il mercato, ma anche le famiglie e le imprese, temono che l'Italia rischi di non poter continuare il suo percorso di risanamento e di consolidamento della crescita. Il prezzo sarebbe alto, sfiducia dei partner europei e degli investitori internazionali, rischio di una fuga capitali. Quindi appunto un'analisi approfondita e il più lucida possibile di questo appunto abbinamento che si fa spesso tra quello che succede nella vita politica e la reazione dei mercati, che ci ricorda Alessandro Praterotti non sono un'entità fantasmatica, ma sono appunto un insieme variegato e pieno di variabili di investitori privati e non. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore vedremo poi una parte, lo vedremo poi dopo all'interno, vi segnalo un'intervista a Enrico Giovannini, che è il ministro del welfare, che parla soprattutto di pensioni, e a questo proposito vi segnalo un corsivo di un altro vice direttore del Sole 24 Ore, Fabrizio Forché, l'ossessione dei numeri. C'è una ragione se il Sole 24 Ore ha l'ossessione dei numeri. Solo sui dati si può basare un corretto dibattito pubblico e si possono adottare politiche utili al bene comune. In Italia non si usa così. E si può discutere per un decennio di pensioni d'oro senza sapere di cosa si parli. Ora finalmente sono disponibili i numeri veri. Non ci sono tesori a cui aggiungere, ma non per questo non bisogna intervenire con urgenza per ristabilire un'equità che oggi manca. Con i piedi saldi per terra però e non danzando tra i cieli della demagogia. E vedremo poi una parte di questa intervista di Giovannini al Sole 24 Ore. Ma torniamo alle prime pagine degli altri quotidiani. La Repubblica, anche qui il titolo principale è sulla Siria. Attacco in Siria, America pronta. Due le analisi, una di Federico Rampini sul fattore iraniano, sapete infatti che l'Iran ha detto fin dall'inizio di essere contrarissimo a questo intervento, e poi un'analisi di Barbara Spinelli, il castigo e l'oblio. Per quanto riguarda invece le questioni politiche e quelle economiche, soprattutto sull'IMU, che ripetiamo verrà veramente sciolta probabilmente nel Consiglio dei Ministri in programma per oggi, la Repubblica titola svolta sull'IMU, per quest'anno la tassa non si paga, quindi per Repubblica è cosa fatta, in realtà appunto una certezza l'avremo solo dopo il Consiglio dei Ministri. E poi un'analisi di Federico Fubini, spread stile Spagna, e che continua poi all'interno a pagina 27, mentre tutti gli articoli sull'IMU sono alle pagine 6 e 7. La prima pagina della Stampa, Siria, ecco i piani di attacco, quindi anche qui il tema principale è quello, con un'analisi di Gianni Riotta, un dubbio machiavellico per Obama. Ma vi segnalo dalla Stampa un approfondimento, abbiamo visto sulla Repubblica l'Iran, la Stampa invece si concentra su Israele con una fotonotizia di un israeliano che mostra ai figli come sistemare la maschera antigas. Naturalmente si teme molto la rappresaglia, la ritorsione di Damasco sullo Stato ebraico, e quindi c'è stata una corsa all'acquisto di maschere antigas in tutto Israele. Ce lo racconta Maurizio Molinari che titola il suo articolo "Israele ha paura, se Assad cade vince Al-Qaeda". E poi vi segnalo, sempre dalla prima pagina della Stampa, il richiamo a un'intervista a Susanna Camusso, che è la leader della CGIL, il più grande sindacato italiano, che viene sintetizzata con prima CIG ed esodati, cioè secondo la Camusso non è veramente l'IMU la priorità che dovrebbe avere il governo. L'intervista la trovate poi a pagina 7. No all'abolizione dell'IMU se mette a rischio i fondi per gli esodati e la CIG in deroga. C'è una, naturalmente, come già nei giorni scorsi, la CGIL, in questo caso appunto tramite il suo segretario Susanna Camusso, esprime i suoi dubbi sulle misure prese sul pubblico impiego. Dice: non sono 130.000 assunzioni come annunciato, resta il blocco e la norma vale solo per chi bandisce un concorso e solo per il 50% dei precari. Ricorderete le dichiarazioni di Letta: mai più precari nella pubblica amministrazione. Per quanto riguarda i problemi reali del paese, dice Camusso, serve una riforma fiscale che dia risorse ai lavoratori e con meccanismi selettivi alle imprese. Questo è il tema e se ne discute poco. E quindi appunto torniamo sull'intervista che occupa l'intera pagina 9 del Sole 24 Ore al ministro del lavoro Enrico Giovannini, che propone un acconto pensione a chi perde il posto. Questa è una proposta che appunto viene fatta oggi per la prima volta durante questa intervista a Fabio Carducci, per gli over 50, 2-3 anni dal ritiro, che quindi non sono maturi per la pensione, ci sarebbe questa proposta che Giovannini spiega si sta discutendo, perché il tema degli ammortizzatori sociali è importantissimo in Italia, perché di ammortizzatori sociali in Italia ce ne sono pochi. Sapete, poi anche c'è anche tutto il dibattito sul reddito minimo, per esempio, o addirittura il reddito di cittadinanza. Quindi in questa pagina trovate un identikit dei pensionati con tutte le classi di reddito pensionistico mensile, e poi un approfondimento di Claudio Tucci: solo 540 i paperoni con assegni oltre 20.000 euro. Come diceva appunto Forché, uno dei nostri vice direttori, si deve partire dai numeri per parlare seriamente delle cose che poi, come le pensioni d'oro o gli ammortizzatori sociali, che riguardano veramente la vita e i disagi delle persone. Vi segnalo la serie di approfondimenti che il Sole 24 Ore ha fatto per tutto agosto sul portafoglio. Quest'oggi è una pagina di Marco Lo Conte sulla previdenza sui fondi pensioni, il cosiddetto secondo pilastro, e Lo Conte ci spiega come, se si sceglie con cura, a seconda dei vari profili, il vitalizio, cioè si può rafforzare del 20%. Mentre per quanto riguarda l'altra serie di approfondimenti, quella sulla casa, oggi Giampaolo Tosoni, a pagina 14 del Sole 24 Ore, ci spiega tutto sull'invenduto, cioè che cosa cambia per i costruttori e con il rischio delle cosiddette società di comodo. Tutte le domande e i casi con i punti cardine di queste nuove norme sul cosiddetto invenduto. Vi segnalo un ultimo approfondimento dal Sole 24 Ore, pagina 22, la corrispondente da Pechino, Rita Faticuso, che ci spiega anche qui con numeri cosa sia davvero la corsa al mattone in Cina e il possibile rischio di una bolla. Dal real estate viene il 12,5% del PIL del paese. A Shanghai i prezzi dei terreni sono lievitati del 373%. Il Messaggero sceglie appunto l'IMU: c'è l'intesa, due punti, cancellata l'IMU. Quindi il Messaggero dà per certo il risultato del Consiglio dei Ministri di oggi. Vertice a Palazzo Chigi: c'è stato ieri appunto questo vertice tra il Premier Alfano e tra il Premier Letta e il Vice Premier Alfano, che secondo il retroscena di Marco Conti avrebbero disinnescato l'ultimo assalto degli ultra della crisi. Naturalmente la trattativa vera è sulla copertura, perché questi 4 e passa miliardi che servono vanno trovati, e allora, ci spiega il Messaggero, potrebbero arrivare tasse su alcolici e giochi, e ci potrebbe essere una stretta sulle seconde case. Per quanto riguarda la crisi siriana, vi segnalo anche un approfondimento sulle dichiarazioni di Emma Bonino, il nostro ministro degli esteri, che come abbiamo visto anche su altri giornali, ha detto l'Italia parteciperà solo se c'è un mandato ONU. E a questo proposito vi segnalo dal Foglio in realtà un reality check su questa questione, perché scrive Daniele Ranieri a pagina 2 del Foglio sulla questione della legittimità internazionale: il ministro degli esteri italiano Emma Bonino ha chiesto che qualsiasi intervento armato sia fatto con l'autorizzazione delle Nazioni Unite. Il via libera potrebbe non arrivare mai, considerato il potere di veto di Russia e Cina dentro il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, formato da 15 paesi. Secondo Richard Haass, presidente del US Council on Foreign Relations, il governo americano può procedere senza l'approvazione dell'ONU. Il Consiglio di Sicurezza non è l'unico custode di cosa è lecito e cosa no, e come molti hanno notato fu bypassato anche ai tempi del Kosovo, per la stessa ragione: superare il veto di Mosca, che proteggeva il presidente jugoslavo Slobodan Milosevic. Secondo una fonte dell'amministrazione, il presidente Obama non cercherà legittimità alle Nazioni Unite e nemmeno passerà per la NATO. Vediamo invece alla prima pagina del Giornale, che titola: chi rischia la sinistra, IMU e agibilità politica, il PD si gioca la credibilità sulla casa e sulla decadenza del Cavaliere, o rispetta i patti o si arrende ai PM. E l'editoriale e il pezzo di apertura è come sempre del direttore Alessandro Sallusti, ma vi segnalo anche il titolo sulla Siria con un approfondimento di Roberto Fabbri: Occidente ipocrita, ammazzatevi pure ma non col gas. I big si svegliano ora, ma Assad ha già fatto 100.000 vittime. E sicuramente, per quanto appunto molto forte sia sia questo titolo, a Roberto Fabbri ha sicuramente le sue ragioni, cioè sul fatto di come tra l'altro a volte si facciano dei distinguo tra le guerre in cui vale la pena intervenire, le stragi che vale la pena tentare di fermare e quelle che invece vengono ignorate appunto da questo Occidente che il giornale definisce ipocrita. Ma veniamo alla prima pagina di Libero, che titola Oggi via l'IMU o via Letta, e quindi il giorno del giudizio. Consiglio dei ministri decisivo, vicino all'accordo sulla copertura economica, anche se i democratici remano ancora contro. Per il PDL ottenere l'abolizione della tassa è fondamentale, altrimenti è crisi. Ma sulla Siria vi segnalo invece un intervento di Maria Giovanna Maglie, anche in questo caso che esprime tutta la contrarietà, i dubbi che ci possono essere a questa scelta. L'attacco alla Siria sbagliato e inutile, vi leggo le prime righe: troppo tardi, troppo poco per aiutare terroristi e non più la popolazione, senza alcuna intenzione di rovesciare sul serio un regime sanguinario e di instaurare un governo democratico. E dalla prima pagina dell'Unità, invece, anche in questo caso l'apertura sulla Siria, a un passo dall'attacco. Infatti ieri ci sono state, ricordiamo, il presidente Obama non è ancora intervenuto, cioè ha parlato il portavoce della Casa Bianca. Joe Biden ha fatto un piccolo intervento dicendo che sicuramente le armi chimiche sono state usate e che sicuramente le ha Damasco, quindi per un sillogismo probabilmente le ha il governo di Damasco, quindi per un sillogismo le ha usate Assad, e quindi l'intervento sarebbe giustificato. Però ripeto, non c'è stata una presa di posizione chiara da parte del presidente Obama, che forse ci sarà oggi o al massimo domani. Ma a proposito di polemiche, di pareri contrari, vi segnalo dalla prima pagina dell'Unità un intervento sulla famosa legge sul femminicidio, che sapete è stata la discussione vera avverrà dopo, probabilmente in settembre, e oggi Francesca Izzo dice: quella legge non è da buttare. Vi ricorderete sicuramente, ne abbiamo parlato tanto più o meno a ridosso di Ferragosto, dopo questa legge varata un po', forse con un po' di fretta, perché si seguivano le notizie di cronaca sui femminicidi, non tutti, compresi avvocati che difendono le donne dallo stalking, come Giulia Bongiorno, che ha addirittura fondato un'associazione insieme a Michel Hunziker per appunto difendere le donne da questi fenomeni, in realtà non tutti sono d'accordo e da subito si sono segnalate le pecche di questo disegno di legge. Ma Francesca Izzo, per esempio, interviene, e quell'intervento segue poi a pagina 15, e tiene alto un po' questo tema, visto che purtroppo, come sempre, appena la cronaca viene superata non si parla più di questioni, salvo poi riparlarne quando la cronaca di nuovo si ripresenta. Allora scrive Francesca Izzo: su questioni come la violenza contro le donne e i femminicidi i toni netti e trancianti non sono i più adeguati, e questo vale anche per il giudizio sull'attuale decreto governativo all'esame del Parlamento. Comunque vedremo, perché appunto il Parlamento se ne occuperà tra poco. La prima pagina del manifesto, guerra su guerra, e qui la foto è di un bambino che si nasconde, un bambino siriano che si nasconde tra le braccia di un incaricato dell'ONU, dell'Alto Commissariato per i Rifugiati. L'analisi è di Giulio Marcon, coazione a ripetere, e si cerca un po', appunto, come hanno fatto anche altri giornali, di ricordare quali sono stati i limiti degli interventi armati decisi negli anni scorsi. Ma visto che oggi è il 28 agosto e nei giorni scorsi è stato molto anticipato, con questa mania un po' di forse temendo che qualche giornale ne parli prima di anticipare gli anniversari, oggi è in realtà il vero anniversario della famosa marcia delle 200 o 200.000 persone che si riunirono a Washington per ascoltare il famoso discorso I Have a Dream di Martin Luther King. Oggi appunto sono passati davvero 50 anni. Ed ecco allora l'articolo di Bruno Cartosio, Il sogno ancora incompiuto. Vi leggo le prime righe. He's damn good. È proprio bravo, commentò il presidente Kennedy, che alla Casa Bianca aveva visto e ascoltato Martin Luther King nella diretta televisiva. Era il 28 agosto 1963. Il reverendo King aveva appena chiuso la grande manifestazione di Washington con quel I have a dream, che pur essendo durato poco più di 10 minuti, sarebbe stato poi ricordato come uno dei più grandi discorsi del Novecento. dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, invece anche qui il titolo, invece, come c'era da aspettarsi, è tutto politico. Pateracchio salva Caimano, ora Violante spiazza il PD. Quindi torniamo alla famosa, quasi famigerata per molti membri del PD, intervista di Violante, ex presidente della Camera, sicuramente un esponente di spicco del PD, che ha appunto avviato ufficialmente la discussione su questa via d'uscita che potrebbe essere il ricorso alla Corte Costituzionale. Ufficialmente i democratici confermano il voto per la decadenza di Berlusconi da senatore, ma sotto traccia si lavora per agevolare il rinvio della legge Severino alla Consulta proposta dal saggio del Colle, e Monti invoca la grazia. Poi un approfondimento di Giampiero Gramaglia sulla questione della Siria, venti di guerra, giovedì attacco alla Siria ma Obama tace. L'uso del gas sarin contro la popolazione civile, le immagini dei corpi di bambini uccisi hanno indotto anche i governi più riottosi all'intervento. Ma l'opzione militare, anche in forma di blitz, è piena di incognite, così come la reazione di Putin pro Assad. Dalla prima pagina della Padania, il titolo in realtà è dedicato alla riforma della pubblica amministrazione, molto criticata dai leghisti, perché per esempio viene molto criticata la possibilità che ci sia un posto fisso per immigrati anche senza cittadinanza. Ma c'è anche un titolo sulla Siria: la democrazia non si sporta con le armi. Luca Tavecchio riprende la reazione di Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato, che dice: all'Italia sono bastati il Kosovo e le bombe della sinistra, perché ricorderete appunto in quell'occasione a Palazzo Chigi, durante la guerra del Kosovo, c'era Massimo D'Alema. Vi segnalo infine la prima pagina dell'Avvenire per quanto riguarda le prime pagine, poi continueremo con le pagine interne. Siria, attacco annunciato. C'è stata quella che l'Avvenire definisce un'escalation sulle accuse di utilizzo di armi chimiche, e c'è questa ipotesi appunto di 3 giorni di bombardamenti mirati. 2 le analisi, un po' con così, che cercano anche qui di cercare di tutti di considerare questa questione con il massimo, soprattutto noi che queste bombe non le vedremo, le guarderemo soltanto in televisione, quindi possiamo permetterci questo lusso di ragionare su queste cose a freddo. E uno è di Fabio Carminati, si intitola Calcolate menzogne, i passi indietro difficili e necessari, e l'altro si intitola Catastrofe morale, è di Ferdinando Camon, con un'analisi del quello che Camon chiama il male che il conflitto già fa. Vi leggo le prime righe dei due pezzi. Quello Calcolate menzogne: chi mente nella guerra delle bugie siriana? Mentono i ribelli quando affermano che è stato il regime a provocare 1300 morti nei sobborghi di Damasco con le armi chimiche? Mente Assad quando dice che sarebbe stato un suicidio usare i gas contro la popolazione civile e accusa i terroristi di averlo fatto? Neanche questa ennesima serie di domande, in un conflitto che ci ha abituato alle menzogne su vittime e carnefici, troverà risposta. O meglio, ognuno risponderà a modo suo. Accertare la verità è difficile, ma non impossibile. Se i dubbi sono pochi sull'effettivo uso dei gas, con centinaia di persone uccise in pochi minuti, anche scoprire chi ha perpetrato il massacro non è un'impresa insormontabile. La Siria è monitorata 24 ore su 24 dai satelliti. Washington dice che esibirà le prove in settimana, forse già oggi, ma come lo farà? E perché il regime non è riuscito a sua volta a dimostrare la propria innocenza? L'altro invece di Ferdinando Camon: ci risiamo, tornano le sagome dei cacciabombardieri sui giornali, quelli di costruzione americana, quelli di costruzione russa. In basso c'è la cartina della Siria, costellata di postazioni missilistiche, in alto volano le sagome di questi aerei, dalle cui ali si staccano i missili che vanno a colpire le rampe nemiche. Sono fotografie di guerra? No, perché questo tipo di guerra non c'è, sono disegni, prefigurazioni della guerra, previsioni che in un certo senso hanno, questo voglio dire, un valore ottativo. E vediamo invece, lasciamo questo tema della Siria, che sicuramente spaventa non solo i mercati ma credo tutti, perché le immagini di guerra sono, anche se ci viene detto che gli attacchi saranno mirati, comunque le immagini della guerra sono sempre mettono sempre molta paura. Dal Corriere della Sera, poi ci lasciamo per la pausa sul traffico, vi segnalo un approfondimento richiamato in prima pagina, approfondimento a pagina 20 e 21, su quella che potrebbe essere veramente più che una moda una nuova tendenza, ed è quella dei vegetariani e dei vegani. Ce lo spiega Paola Pollo, e dice: dai supermercati alle mense scolastiche l'avanzata dei vegani. Per gli uomini sarebbe una scelta di salute, per le donne sarebbe invece avrebbe una valenza più etica. Quindi questo no, perché di no si tratta, se si è vegani vegetariani e non solo vegetariani a carne, pesce e persino latte e uova, servirebbe a curare il corpo ma anche l'ambiente. Vi segnalo alcuni articoli dalle pagine interne dei quotidiani, per esempio sul Corriere della Sera, un articolo che in realtà è richiamato in prima pagina con una grande fotonotizia, è la storia di Leslie Rochat, una ragazza, un'attivista sudafricana che nuota tra gli squali per dimostrare che gli squali non sono così pericolosi. E appunto ci sono molti modi di amare gli animali, abbiamo visto l'approfondimento sull'avanzata dei vegani che lo fanno per salute, lo fanno per proteggere l'ambiente, ma anche perché non vogliono appunto mangiare gli animali, magari allevati in modo così molto crudele. Invece Leslie Rochat appunto nuota tra gli squali per dimostrarci che non sono i mostri che a volte magari anche il cinema dipinge. Ah, naturalmente ieri si è inaugurata a Venezia la mostra del cinema, pre-inaugurata, oggi ci saranno le prime proiezioni, naturalmente anche su questo nelle pagine della cultura di tutti i quotidiani trovate molto, con poi il grande dubbio, si fa per dire, George Clooney con chi si presenterà, sarà accompagnato o no a Venezia. Ma veniamo alla Repubblica, che ha un approfondimento su come è cambiato il clima, se ne parla spesso, però anche le notizie di queste ore sulle trombe d'aria, sulle piogge torrenziali in questo scorcio di questa fine di estate, come il nubifragio a Roma per esempio, la tempesta di fulmini che c'è stata tra Genova e La Spezia con 2000 fulmini caduti il 26 agosto in meno di 24 ore. Ecco, la Repubblica cerca con Elena Dusi, cerca un po' di riassumere tutto. In Italia, come ai tropici, nubifragi e trombe d'aria, così il clima diventa estremo. Dalla Repubblica, vi segnalo, non l'ho fatto in tutti questi giorni, però è sicuramente spesso molto arguta e così offre spunti di riflessione, la rubrica di Michele Serra che si chiama La Maca, ed è sempre all'interno delle pagine di commenti, oggi a pagina 26, ve la leggo. 20 anni fa spariva dalla vita politica per un avviso di garanzia. 20 anni fa si spariva dalla vita politica per un avviso di garanzia. Oggi nemmeno una condanna in Cassazione viene considerata quanto basta e avanza per levarsi di torno. È questo vero e proprio precipizio a descrivere meglio di ogni altra cosa il mare profondo che Berlusconi e la sua sconcia clac hanno fatto all'Italia e agli italiani. Così, mentre Luciano Violante, per fortuna nome personale, e Mario Monti, con accenti non dissimili, giustificano eventuali cavilli per non trarre le ovvie conseguenze della condanna di Berlusconi, si ripensa alla vicenda di Josefa Idem, della quale nessuno parla più perché a nessuno conviene parlarne. Si è dimessa per una multa da 3.000 euro, come era doveroso fare e come ha fatto. Ha pagato un prezzo pieno per un errore che, al cospetto della fedina penale di Berlusconi, è meno di zero. Le hanno dato addosso, anche insultandola, molti dei farisei che oggi considerano del tutto normale che Berlusconi continui a fare politica e non decada da senatore. Siamo, e da un bel pezzo, dentro l'apologo del lupo e dell'agnello, con il lupo che fa la vittima e l'agnello già mangiato e digerito da un paese smemorato, ipnotizzato, incapace di trovare il bandolo della propria dignità. Insomma, una posizione abbastanza dura, ma insomma Serra è uomo di sinistra, scrive per Repubblica e non sorprende in fondo questa sua posizione. Mi piaceva però segnalare appunto ricordare la vicenda di Josefa Idem, perché dimentichiamo tutto sempre molto in fretta in questo paese. Dalla pagina invece dedicate a Milano di Repubblica, un interessante approfondimento, invece questa è secondo me una bella notizia e mi piacerebbe che magari si vedessero altri edifici di questo genere in Italia, è appunto il resoconto di Oriana Liso su quel grattacielo nella zona di Porta Nuova, che è una delle zone che cambierà la skyline di Milano. È un grattacielo che è progettato da Stefano Boeri, che è già stato ribattezzato Bosco Verticale perché è pieno di terrazzi, e Oriana Liso ci racconta quella che lei definisce la sostenibile leggerezza del bosco verticale. Per ora in realtà ci sono solo dei bei rendering perché la costruzione non è completata, però è sicuramente un bellissimo progetto, lo trovate appunto, trovate questo approfondimento all'interno delle pagine di Milano dedicate da Repubblica Milano alle pagine 8 e 9. Ma a proposito di Milano, questa invece è una notizia che trovate sulle pagine di Milano del Corriere, che tra l'altro ha queste pagine, mentre appunto la Repubblica le ho trovate solo se la comprate a Milano o in Lombardia. Il Corriere, che è il quotidiano milanese per eccellenza, queste pagine di Milano le trovate in qualsiasi parte d'Italia compriate il Corriere. C'è la storia della casa più cara d'Italia, è in zona Pagano, quindi nella zona qui dove siamo noi più o meno, costa 40 milioni di euro. Poi c'è tutto le c'è il la classifica delle altre case più care, subito dopo quella di Milano viene un casale contenuta a Cecina in Toscana che costa 35 milioni e al terzo posto una villa a Porto Cervo che ne costa 13. Dalla Stampa invece un'interessante inchiesta, pagine 12 e 13, sulla Serie A. Il campionato di Serie A è appena iniziato sabato scorso e la Stampa ci racconta come quest'anno ci sia veramente una babele. Il calcio italiano non è mai stato così straniero. Nella prima giornata, se si guarda, c'è stato un record di giocatori tra virgolette importati, 156. Esterofero anche il Napoli, resistono solo Parma e Torino. E poi un altro articolo di Gigi Garanzini, che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene: se il vivaio non è più un valore, per i tifosi è sempre più difficile identificarsi con i propri eroi. E con questa tabella che riassume come siano aumentati gli stranieri in Serie A, oggi sono 315, erano 168 nella stagione 2004-2005. Però ci ricorda Gigi Garanzini, il problema sono i vivai, cioè i giovani sono il problema. Ma vero, perché si matura in panchina e poi si emigra per giocare. Visto che abbiamo parlato di sport, la prima pagina della Gazzetta dello Sport dedicata a Allegri, perché stasera si gioca la partita tra il a San Siro, il ritorno col PSV e Allegri si gioca appunto l'ingresso nella Champions e quindi Allegri si gioca tutto, titola la Gazzetta dello Sport. Il futuro del Milan e del tecnico legati alla qualificazione appunto alla Champions. Non tradiremo, dice in questa intervista alla Gazzetta dello Sport, ballano i milioni per i rinforzi. Sapete che appunto si può ancora modificare gli assetti delle squadre. E poi, visto che abbiamo parlato di Milan, c'è invece in prima pagina sulla Gazzetta una foto di Eto'o, che ieri era a passeggio per Milan con una bici nero azzurra. Mourinho continua a dire che invece alla fine Eto'o se lo prenderà lui, ma Eto'o appunto girava per Milano in bici nero azzurra, ci spiega la Gazzetta. Dalla Stampa, anche a proposito di articoli come cerco sempre di segnalare, che magari trovate solo su un giornale e non su tutti, un approfondimento su quello che viene chiamato il caso Bolivia-Brasile e guerra sulla fuga dell'Assange che contestava Morales. Un diplomatico l'ha portato dalla Paz a Brasilia nascosto in auto, quindi queste storie di moderno spionaggio, moderne tensioni tra paesi. Questi Roger Pinto Molina, c'è una foto, questo Assange appunto sudamericano saluta dalla soglia della casa di Brasilia dove si è rifugiato, ed è la casa del suo avvocato Fernando Tiburcio Pene. È stato nascosto, pensate, questo Roger Pinto Molina, 455 giorni, e ha passato 15 mesi in una piccola stanza dell'ambasciata del Brasile a La Paz, appunto nella capitale boliviana. E poi, ieri l'avrete sentito, Michael Caine, che avrebbe in un'intervista detto che Sean Connery ha l'Alzheimer, Richard Newbery da Londra ci racconta che invece sarebbe soltanto un po' una recita, quasi uno scherzo. L'ultima recita di due quasi amici, Michael Caine appunto avrebbe detto: Sean perde spesso la strada ed è scoppiato il giallo dell'Alzheimer, ma la portavoce della star scozzese, cioè Sean Connery, ha smentito tutto. Dalla prima pagina del Foglio, per così restare un po' in tema di leggerezza, come vi dicevo, io sono una fan, come vi dicevo ieri, di Annalena Benini, che scrive spesso sul Foglio. Oggi si occupa di Kate Middleton. Il suo articolo si intitola Pancia Regale, è molto, molto carino. Ci dice: è finita l'età dell'innocenza e ha portato via con sé anche quest'ultima illusione, che la pancia postparto di Kate Middleton avesse a che fare con la rivoluzione, con una monarchia democratica e non a dieta, un posto governato dalla amore dai seggiolini per l'auto montati con sollecitudine da un principe ereditario in maniche di camicia. Il riferimento naturalmente alle foto di Kate a poche ore dal parto, e aveva la naturale pancetta di una donna che ha appena partorito. Poi in realtà ieri Kate è uscita di casa un mese dal parto, è andata da Waitrose, un supermercato, a fare la spesa ed era magrissima. Allora conclude Annalena: le celebrità sono sempre a dieta e Kate Middleton non può fare eccezione, perché deve guadagnarsi ogni giorno il sangue blu per sé e per la sua famiglia. Spinge il carrello come le attrici recita la parte della ragazza reale della porta accanto, ma senza quella pancetta, senza quel cedimento alla realtà, è come se ci avesse regalato una bella idea di sé per tradirla subito dopo, per dire: vi siete sbagliate, non sono una di voi, non lo sono mai stata. Era l'ultima segnalazione per la quale abbiamo avuto tempo e questo è anche l'ultimo mio giorno alla rassegna stampa. Vi ringrazio di averci seguiti, continuate a seguire la rassegna stampa di Radio 24, continuate ad ascoltare Radio 24 e soprattutto continuate a comprare quotidiani, ci sono sempre spunti di riflessione e cibo per il cervello. Una buona giornata a tutti da Giulia Crivelli.